Nell'incontro in cui ha presentato il suo libro ha parlato di omissione di soccorso che avviene nel Mediterraneo. Ce lo può spiegare perché? Ma il perché? Perché qualcuno non fa il suo dovere. La legge internazionale marittima dice: se tu vedi qualcuno che è in difficoltà o in pericolo, dovresti soccorrere. Però i pescatori spesso hanno avuto paura in passato, perché sono stati anche fermati, accusati di favoreggiamento. Dopo quell'evento molti pescatori, anche se vedono, non intervengono. Qualcuno invece, come anche previsto dalla legge, prima avvisa la guardia costiera, poi se la guardia costiera gli dice intervieni, intervengono, oppure gli dicono stai vicino però non fare niente, veniamo noi, aspettano. Però c'è chi lo fa, chi non lo fa. Quindi quando tu non segnali a chi di dovere o non fai qualcosa per salvare quelle vite, diventa un'omissione di soccorso. Questo ha riguardato addirittura la NATO nel 2011, quando c'era la guerra in Libia. Sì, la NATO, che controllava quel tratto di mare davanti alla Libia, quando sono stati trovati un piccolo gommone con 72 persone a bordo che hanno lanciato l'SOS, che la Guardia Costiera italiana, avvisata da me, ha lanciato l'SOS a tutte le navi che erano in zona. Però oltre a quell'intervento fatto tramite l'elicottero che ha portato acqua e biscotti, poi nessuno è tornato a prendere queste persone o a mettere al sicuro queste persone. Questa è un'omissione di soccorso che coinvolge anche la NATO. Al punto che lei, quando segnala la Guardia Costiera, appunto, perché riceve le telefonate, manda anche un'email per testimoniare, quindi qualcosa anche di scritto. Sì, perché questa è la richiesta che è stata fatta anche dalla Guardia Costiera stessa, che mi hanno chiesto ciò che segnalavo via telefono di confermarlo per scritto. Quindi da allora io mando via email la segnalazione che avevo fatto inizialmente telefonicamente, poi come conferma mando via email. Ecco, lei è risultato indagato nell'inchiesta, appunto, sulla questione della Jugendrettet, delle ONG di quest'anno. Come reputa il clima che si è creato in Italia e questa campagna contro le ONG? Ma la campagna mediatica e politica che è stata fatta, per me è un chiaro atto di inciviltà, perché la magistratura è un atto dovuto che deve indagare, perché se riceve una segnalazione da chiunque è giusto che verificano se c'è qualcosa di vero o se qualcosa di illecito. Però un stato di diritto, uno stato civile, aspetta di vedere il risultato finale. Se invece oggi, come già il giudice anche Borsellino e i suoi colleghi dicevano, che l'avviso di garanzia non deve essere usato come un coltello sulla schiena, per cui viene denigrato, viene accusato, già viene fatto un processo mediatico e già mediaticamente la persona è già condannata. Questo è un chiaro segno di degrado civilmente, moralmente, eticamente, di come fare politica, di come fare anche giornalismo. Ecco, qualche articolo di stampa a suo tempo riportò le sue dichiarazioni dicendo: anche se fosse reato io lo rifarei. È vero? Riconferma che ha detto una cosa di questo tipo? A parte, io non ho mai detto niente del genere, ho detto prima di tutto la vita delle persone, quindi se la vita è in pericolo va salvata comunque. Poi dopo possiamo discutere se quella persona ha il diritto o non ha il diritto, quello è un altro punto. Però quando è in pericolo la vita, senza se, senza ma, non sto prima a dire ma è legale salvare quella vita o meno. Se il diritto alla vita è un valore riconosciuto universalmente, esiste per questo anche la legge marittima, che è stata messa perché chiunque sta in pericolo in mare non sia abbandonato. In questo senso sì, certo. Io lo rifarei. Grazie.